Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. «Sono stato spinto di qua e di là per il mondo», disse mio zio, «dall'anno 1742, quando mio fratello, tuo padre, che il cielo lo perdoni, mi tolse di sotto i piedi le terre di famiglia, diventando eretico per sposare quella bisbetica di tua madre. Ma quel che è stato, è stato. È probabile del resto che avrei sperperato anch'io quella piccola proprietà con la stessa rapidità con cui l'ha fatto lui per me. La vita che ho fatto, dopo aver lasciato l'Irlanda, l'avrei semplicemente intrapresa uno o due anni più tardi. Sono stato al servizio di tutti, ragazzo mio, e detto fra noi, ho debiti in ogni capitale d'Europa. Ho fatto un paio di campagne con il reparto dei panduri sotto l'austriaco Trenk. Sono stato capitano nella guardia di Sua Santità il Papa. Ho fatto la campagna di Scozia con il principe di Galles. Un pessimo soggetto, sai, teneva più alla sua amante e alla sua bottiglia di brandy che alla corona dei tre regni. Ho servito in Spagna e in Piemonte, ma sono sempre stato un ciottolo portato dalla corrente, caro ragazzo. Il gioco è stata la mia rovina. Quello è la bellezza. Qui gli brillò negli occhi un lampo lascivo che, devo dire, gli dava un aspetto tutt'altro che bello. Per di più, sulle guance, il belletto era diventato una specie di impiastro per via delle lacrime versate nell'accogliermi. «Le donne mi hanno sempre menato per il naso, Redmond. Io sono un cuore tenero, e in questo stesso minuto, a 62 anni suonati, non ho più controllo su me stesso di quando a 16 anni venni preso per il naso da Peggy Odweyer. Diamine, signore, gli dico ridendo, credo che questa sia una malattia di famiglia». E gli raccontai, con suo grande divertimento, la mia romantica passione per mia cugina Nora Brady. Poi lui riprese la sua storia. «Ormai le carte sono il mio solo mezzo di sostentamento. A volte ho fortuna, e allora spendo il denaro in queste bagatelle che vedi. Sono beni tangibili, sai, Redmond. E poi è il solo modo che io abbia trovato di tenere qualcosina a portata di mano. Quando la fortuna si mette contro, ebbene, caro mio, i diamanti se ne vanno al Monte di Pietà e io mi metto addosso ai fondi di bicchiere. L'amico Moses, l'orefice, viene a farmi visita proprio oggi, perché la fortuna mi è stata avversa tutta la scorsa settimana e devo trovare del denaro per il banco di stasera. Conosci le carte?» Risposi che sapevo giocare come tutti i soldati, ma senza avere una grande abilità. «Domattina faremo pratica, ragazzo mio», disse, «e ti insegnerò un paio di cosette che vale la pena di sapere». Naturalmente ero lieto di avere questa occasione di acquisire nuove conoscenze e mi dichiarai felice di accogliere gli insegnamenti di mio zio. Il modo in cui il cavaliere aveva parlato di sé e della sua vita mi fece un'impressione decisamente negativa. Quello che aveva da mostrare ce l'aveva tutto addosso, come diceva lui stesso. Perfino la carrozza, con la sua bella doratura, era solo uno dei suoi ferri del mestiere. Beh, in effetti aveva una specie di incarico da parte della corte austriaca. Doveva scoprire se una certa quantità di ducati falsi, di cui erano state seguite le tracce risalendo fino a Berlino, provenivano dalla tesoreria del re. Ma il vero fine de Monsieur de Balibari era il gioco. C'era un giovane attaché dell'ambasciata inglese, Milord Duchamps, più tardi visconte e conte di Crabs nell'albo dei pari d'Inghilterra, che giocava forte. Sentito parlare della sua passione per il gioco, mio zio, allora a Praga, aveva subito deciso di visitare Berlino per sfidarlo. Esiste infatti uno strano spirito cavalleresco tra questi cavalieri del dado. La fama dei grandi giocatori si diffonde per tutta Europa. So che il cavaliere Casanova, per esempio, viaggiò 600 miglia da Parigi a Torino al solo scopo di incontrare Mr. Charles Fox, il quale allora era solo il brillante figliolo di Milord Holland e più tardi fu il più grande oratore e statista d'Europa. Stabilimmo che avrei continuato a fare la parte del valletto, che in presenza di estranei non avrei saputo una parola d'inglese e che mentre servivo lo champagne e il punch avrei tenuto ben d'occhio le briscole in mano agli altri giocatori. Avevo una vista acutissima e una grande disposizione naturale per questo genere di attività. E così fui ben presto in grado di dare a mio zio un valido aiuto contro i suoi avversari al tavolo verde. Qualche bacchettone farà l'indignato per queste mie franche confessioni. Il cielo perdoni la sua ingenuità. Ma crede davvero che uno che abbia vinto o perso 100.000 sterline al gioco non approfitti dei vantaggi di cui gode il suo vicino? Sono gli stessi per tutti. Ma soltanto i pasticcioni senza cervello barano, ricorrendo ai volgari espedienti dei dadi truccati e del mazzo preparato. Uomini così certamente finiranno male un giorno o l'altro e comunque non sono degni di giocare in compagnia di gentiluomini come si deve. E il mio consiglio a chi vede una persona tanto volgare impegnata nelle sue monellerie è di assecondarla finché gioca, naturalmente, ma poi non avere mai, assolutamente mai più nulla a che fare con lei. Giocate forte e giocate con onore. Non vi abbattete per qualche perdita, ma soprattutto non mostratevi ingordi quando avete vinto, come fanno gli animi meschini. Del resto, anche con tutta l'abilità e i vantaggi possibili, riuscire a vincere è spesso problematico. Ho visto un perfetto ignorante che sapeva giocare tanto quanto sapeva l'ebraico, brancolare attraverso pochi giri di carte e pelarvi così di 5.000 sterline. Ho anche visto un gentiluomo e il suo compare giocare contro un altro gentiluomo e il suo compare. In questi casi non si è mai al sicuro. E quando si considera il consumo di tempo e fatica, il lavoro di ingegno, l'ansia, il necessario dispendio di denaro, il gran numero di debiti insolvibili con cui si viene pagati, perché di mascalzoni senza onore se ne trovano al tavolo da gioco come in qualunque altro luogo del mondo, io per me dico che la professione del giocatore è una delle peggiori. E infatti non ho quasi mai incontrato nessuno che alla fin fine ne avesse tratto un profitto. Questo lo scrivo ora che ho l'esperienza di un uomo di mondo, ma all'epoca di cui parlo ero un ragazzo, abbagliato dall'idea della ricchezza e pieno di rispetto, certo eccessivo, per l'età di mio zio e per la sua posizione mondana. Non occorre che io descriva in tutti i dettagli i piccoli accorgimenti su cui ci accordammo. I giocatori del giorno d'oggi non hanno bisogno di lezioni, mi pare, e il grande pubblico non ha molto interesse per queste faccende. Ma il nostro segreto era la semplicità. Tutto ciò che ha successo è semplice. Se, per esempio, toglievo la polvere da una sedia con il mio tovagliolo, voleva dire che l'avversario era forte a quadri. Se la spingevo da una parte, avevo un asso e un re. Se dicevo punch o vino, signore, voleva dire che aveva cuori. Se vino o punch, fiori. Se mi soffiavo il naso, significava che c'era un altro compare impiegato dell'avversario. E allora sì, che avevano luogo delle belle prove di destrezza. Ve lo garantisco io. Milord de Chance, benché tanto giovane, aveva grandissima abilità e perspicacia in ogni genere di giochi di carte. E fu solo quando io sentii Frank Panther, che era venuto con lui, sbadigliare 3 volte quando il cavaliere aveva l'asso di briscola, che capii che eravamo coinvolti, per così dire, in uno scontro all'ultimo sangue. La mia finta stupidità era perfetta. La descrivevo a Monsieur de Potsdorf e lui ne rideva quando andavo a fare i miei piccoli rapporti nel padiglione fuori città dove lui mi dava appuntamento. Questi rapporti, naturalmente, erano concertati in precedenza tra me e mio zio. Mi aveva insegnato, e questo è sempre di gran lunga il sistema migliore, a dire il massimo di verità che la mia storia potesse reggere. Quando, per esempio, mi chiedeva «Che cosa fa il cavaliere di mattina?», io rispondevo «Va regolarmente in chiesa». Era infatti molto religioso, e dopo aver sentito messa, torna a casa a far colazione. Poi va a prendere una boccata d'aria nella sua carrozza fino all'ora di pranzo, che viene servito a mezzogiorno. Dopo pranzo scrive le sue lettere, se ne ha da scrivere. Ma a questo riguardo ha ben poco da fare. Le lettere sono dirette all'ambasciatore d'Austria, a cui scrive regolarmente, senza però che lui gli risponda. E dato che sono in inglese, naturalmente le leggo sopra le sue spalle. In genere chiede denaro. Dice che gli serve a corrompere i segretari della tesoreria per scoprire da dove vengono in realtà i ducati falsi. Ma la verità è che ne ha bisogno per giocare di sera, quando fa la sua partita con Calzabigi, l'appaltatore della lotteria, o con gli attaché russi, con Milord Chance e Milord Panther, due dell'ambasciata che giocano a Jeux d'Enfer, e con qualche altro. La stessa compagnia si riunisce ogni sera a cena. Raramente ci sono signore. Quelle che vengono sono soprattutto signore francesi, appartenenti al corpo del balletto. Lui vince spesso, ma non sempre. Lord Chance è un giocatore eccellente. Qualche volta viene il cavalier Elliot, ambasciatore d'Inghilterra, e allora i segretari d'ambasciata non giocano. Monsieur de Balibari pranza anche alle legazioni, ma non nei giorni di grande ricevimento. Credo che Calzabigi sia suo compare di gioco. Ultimamente ha vinto, ma 2 settimane fa ha impegnato il suo diamante solitario per 400 ducati. Lui e gli attaché inglesi conversano mai nella loro lingua? Ah sì, lui e l'invitato hanno parlato ieri per mezz'ora della nuova ballerina e dei disordini in America, soprattutto della nuova ballerina. Come si vede, le informazioni che fornivo erano molto minute e precise, anche se poco importanti. Ma così com'erano, venivano riferite all'orecchio di quel famoso eroe e guerriero, il filosofo di Sanssouci, e non c'era straniero che entrasse nella capitale senza che le sue azioni venissero così spiate e riportate a Federico il Grande. Finché il gioco d'azzardo rimaneva confinato ai giovani delle varie ambasciate, Sua Maestà non si curava di impedirlo, anzi, lo incoraggiava presso tutte le missioni diplomatiche, ben sapendo che è facile far parlare un uomo in difficoltà finanziarie e che una tempestiva borsa di Federici poteva guadagnargli un segreto che ne valeva molte migliaia. In questo modo ottenne vari documenti dall'ambasciata francese. E sono certo che Milord Chance gli avrebbe fornito informazioni al medesimo prezzo se il suo capo non avesse conosciuto molto bene il carattere di quel giovane gentiluomo e affidato, come spesso avviene in simili casi, il lavoro d'ambasciata a un affidabile plebeo. Mentre la jeunesse dorée del suo seguito sfoggiava i suoi merletti ai balli o scuoteva i polsini di pizzo sul tavolo verde del faraone. Ne ho visti a bizzeffe di questi sbarbatelli di rango. Ho visto loro e i loro campioni, e mon Dieu, come sono imbecilli. Che babbei, che perdigiorno, che stupidi damerini dalla testa vuota. È una delle più grandi truffe del mondo, questa diplomazia. Se la carriera fosse davvero così difficile come vorrebbero farci credere quei signori solenni che annodano nastrini rossi attorno ai loro cofanetti rossi zeppi di documenti, come si può pensare che andrebbero regolarmente a raccattare per quel lavoro all'uscita di scuola dei ragazzini dalle guance rosa che hanno al loro attivo solo il titolo nobiliare della mamma, e che tutt'al più se ne intendono di calesse, di nuove danze o di stivali ben lucidati. Ma quando la voce che c'era in città una tavola di Faraone si diffuse anche tra gli ufficiali della guarnigione, questi fecero follie pur di essere ammessi a giocare, e mio zio, nonostante lo scongiurassi di non farlo, non aveva nulla in contrario a permettere a quei gentiluomini di provarsi con le carte, e un paio di volte ripulì le loro borse di una bella sommetta. Invano gli spiegai che sarei stato costretto a riferire la novità al mio capitano, perché i suoi compagni avrebbero certamente parlato, e lui avrebbe saputo dell'intrigo anche se non lo informavo. «E tu diglielo», rispose mio zio. «Vi manderanno via», dissi. «E allora che ne sarà di me?» «Tranquillizzati», disse lui con un sorriso. «Non rimarrai indietro, te lo garantisco. Vai a dare un'ultima occhiata alla tua caserma e stattene tranquillo. E di addio ai tuoi amici di Berlino. Poveri cari, come piangeranno quando sapranno che sei fuori del paese, perché ne uscirai, com'è vero che mi chiamo Barry». «Ma in che modo, signore?» mormorai. «Ricordati di Mr. Fakenham di Fakenham», rispose con aria sorniona. «Il modo me l'hai insegnato tu stesso. Vai a prendermi una delle mie parrucche. Apri il mio cofanetto dei documenti, dove sono deposti i grandi segreti della cancelleria austriaca. Tirati via i capelli dalla fronte. Su, sbattiti questa benda sull'occhio, appiccicati questi baffi, e ora guardati allo specchio». «Il cavalier de Balibari!» esclamai scoppiando a ridere, e cominciai a camminare per la stanza come lui, con il ginocchio rigido. L'indomani, quando andai a fare il mio rapporto a Monsieur de Potsdorf, gli riferii dei giovani ufficiali prussiani che di recente si erano dati al gioco. E lui rispose, come prevedevo, che il re aveva deciso di espellere dal paese il cavaliere. «È un maledetto spilorcio», replicai. «In 2 mesi ho avuto da lui solo 3 Federici. Spero che vi ricorderete la vostra promessa di una promozione». «Ma come? 3 Federici sono anche troppi per le notizie che mi hai raccolto», disse il capitano con un sogghigno. «Non è colpa mia, se non ce ne sono state di più», risposi. «Quando se ne deve andare, signore?» «Dopodomani. Mi hai detto che tra la colazione e il pranzo fa il suo giro in carrozza. Quando uscirà per salire in vettura, un paio di gendarmi monteranno a cassetta e il cocchiere avrà ordine di partire». «E i suoi bagagli, signore?» «Oh, quelli gli saranno spediti dopo. Ho una gran voglia di dare un'occhiata a quel cofanetto che contiene le sue carte, a quanto mi dici. A mezzogiorno, dopo la parata, sarò all'albergo. Non farai parola a nessuno di quest'affare e mi aspetterai nelle stanze del cavaliere fino al mio arrivo. Dobbiamo forzare quel cofanetto. Sei un cane da caccia stupido, altrimenti avresti preso la chiave da un pezzo». Pregai il capitano di non dimenticarmi e così presi congedo da lui. La notte dopo misi un paio di pistole sotto il sedile della carrozza, ma credo che le avventure del giorno seguente meritino senz'altro l'onore di un capitolo a parte. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, riduzione di Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.